un urlo di approvazione. È fresca questa sera del secolo XXI, su questa pattumiera di fango e di miracoli. La vita è incandescente, è istinto primordiale. Chi non si è fatto male non l'ha vissuta mai. Dai! E sopra il comodino un Cristo personale ci può giustificare e ci perdonerà. Una benedizione non ha mai fatto male, è un Cristo personale che ti perdonerà. Lui ti perdonerà. All'ombra della luna, all'ombra della luna si cercano altre vite, si cercano altre vite, prendendo a schiaffi la fortuna e liberando i diavoli. Un brindisi al veleno, che non ritornerà. E sopra il comodino, grandezza naturale, un Cristo personale che ti perdonerà. Una benedizione non ha mai fatto male, ma è un Cristo personale che ti perdonerà. Che ti perdonerà. Personale, c'è un Cristo personale.